E allora ci siamo tutti. Chi interviene? Coraggio, su. Chi interviene? Io posso chiedere una cosa a Chiesa, se è possibile. Lui ha accennato a un certo momento a una cosa, a una caratteristica di queste versioni alto medievali, cioè quella di essere talmente letterali dal greco che c'è bisogno del testo greco a un certo punto per comprenderlo. Ho avuto un'esperienza analoga anch'io per una, studiando un po' una traduzione anonima di Gregorio Nazianzeno. E allora domando se queste traduzioni sono così difficili, che c'è bisogno addirittura dell'originale per capirle, che diffusione potevano avere, che funzione potevano avere, cosa ne pensi? Difatti le versioni più, più letterali non hanno normalmente avuto una grande diffusione. Sì, io faccio un esempio piuttosto studiato, che è quello napoletano. Traduttori napoletani che invece traducono volutamente ad sensum, anche con varianti narrative proprio del testo, con censure talvolta o altro, dicono: noi abbiamo trovato versioni preesistenti che sono fatte in modo tale da non poter essere lette in pubblico, non poter, suscitano ridicolo piuttosto che edificazione, e di conseguenza rifacciamo questo lavoro. In effetti esistono versioni molto letterali, anche diffuse, eccetera, però è abbastanza chiaro anche dai manoscritti, dal tipo di materialità del manoscritto, il fatto di non avere, per esempio, grandi segni di lettura o grandi segni di lettura liturgica, che la diffusione era necessariamente limitata. Non, ho fatto l'esempio di Abibos, Samonas e Gurias, la traduzione di Leone, che è appunto, non è comprensibile in molti casi senza avere davanti anche il testo greco, è rimasto soltanto in un passionario romano, dove sembra un grande passionario, insomma, che sembra un'enciclopedia geografica, ma non sembra aver avuto nessuna diffusione, nessuna effettiva lettura nel corso della storia. Infatti anche questa traduzione anonima di Gregorio Nazianzeno è conservata in un codice solo, effettivamente. E direi che da partire dal IX secolo, più o meno, c'è l'esigenza da parte degli agiografi proprio di riprendere in mano questo materiale dargli una possibile leggibilità, che può partire o da una nuova traduzione oppure da una rielaborazione della preesistente, se era possibile. Ecco. Insomma. Visto che anche gli oratori non sono esclusi dalla dibattito, no, no. Una piccolissima cosa sulla sua. A proposito dell'accenno alla presenza di quella omelia, di una lettera, di un'epistola, cioè il caso, sì, trova qualche altro discorso. Per esempio, in un caso inverso ce l'ho nell'epistolare di Sinese, no? Quell'epistola lunghissima, la 42, secondo la mia numerazione, e in realtà è un'omelia, cioè, però si trova nell'epistola. Come si spiega? Ovviamente, certo, non si può giurare su chi sia stato sul responsabile dei corpora che noi abbiamo, o epistolari, o epistolografici, o omiletici, perché potrebbe essere anche non essere stato l'autore. Però è vero, fra i due generi c'era qualche cosa di comune, anche se c'era poi qualcosa che li allontanava, perché per esempio l'omelia ovviamente era un genere, insomma, discorsivo, filosofico, eccetera, e non poteva entrare nel genere epistolare, perché uno dei primi precetti era quello di non turbare, di non stancare il lettore. Quindi l'atteggiamento filofronetico richiedeva un discorrere blando. Cioè, non togli che ci sono le epistole filosofiche, abbiamo visto le scientifiche. Ecco, cioè, si oscillava forse tra la necessità di rispettare il canone del genere letterario e quello poi di avere una certa libertà nella colorazione in questi corpora. Insomma, il caso di Sinese è l'inverso, ma è identico, diciamo, a questo che tu hai ricordato. Non so, qui non sono sicuro, a proposito di Tetractus, credo di Pertetras sicuramente, ma Pertetractus credo anche, c'è un esempio di accezione nel senso di quattro. Sì, quindi diciamo può darsi che sia stato per deficienza, ma forse aveva presente questo esempio, credo che sia in Porfirio, Pertetras sicuramente, per indicare Tessares, ma mi pare anche per Tetractus, dobbiamo consultare poi dopo, il che naturalmente aprirebbe uno sguardo, diciamo, sulle eventuali letture di Rufino, insomma. Forse nei due volumi, in quello pseudo. Sì, quattro, no, è sicuro, questo sì. Detrassa sicuramente, credo anche Detractus, perché poi il tema è molto raro. La Detractus si trova rarissima, è noto come concetto, ma gli esempi sono pochissimi. Esempi, cinese è uno di quelli, insomma, dei pochissimi, no, che non lo usano in termini. Quindi ovviamente trattandosi di un quasi, non dico di un unicismo, ma insomma, si poteva spiegare. Je pose ma question en français et je la pose aux quatre relateurs de ce matin. Pour faire une traduction, il faut avoir sous les yeux et dans les mains un livre dans la langue originale. Alors la première question, c'est pour Ruffin. Est-ce que les textes grecs traduits par Ruffin ont tous été traduits lorsqu'il était en Orient ou est-ce qu'il a pu traduire en retour en Italie des textes grecs ? Qui se trouvait alors en Italie. Première question. Deuxième question, qui va dans le même sens. Les traducteurs napolitains de textes hagiographiques ont-ils utilisé des textes qui sont arrivés à Naples, je ne sais comment, ou y avait-il déjà à Naples des collections hagiographiques grecques à cette date-là? Troisième question. Comment Maxime Planude s'est-il procuré le De Trinitate de Saint-Augustin et où? E certo, ci piacerebbe sapere come Rufino si sia procurato questo testo, perché in effetti le omelie di Basilio già sono notevolmente antecedenti alla traduzione, di circa una trentina d'anni, mi pare, 30-35 anni. E verosimilmente sì, potevano essersi già formate delle collezioni, dei florilegi. Purtroppo non abbiamo nessuna notizia circa la... Rufino non dice nulla, insomma, né... Soprattutto lui in Grecia era già stato un po' di tempo prima, non siamo informati al riguardo. Piuttosto, questo, come dire, lo aggiungiamo alla sua domanda, alla sua questione, è necessario tenere presente Rufino per la costituzione del testo di Basilio, questo sì, anche se recentemente una proprio un'edizione dell'Epistola 46 insieme di Basilio non ne ha tenuto nessun conto, mentre è vero anche che non esistono edizioni critiche di Rufino, purtroppo, delle omelie di Basilio, ma un aiuto può dare, ecco, e circa l'origine della, come dire, in sostanza bisognerebbe sapere che testo aveva, ecco, se noi potessimo dire che testo di Basilio aveva sotto gli occhi, già qualche cosa potrebbe servire, ma primo, le omelie di Basilio non sono in edizione critica, le omelie di la traduzione di Rufino non è in edizione critica, siamo nelle sabbie mobili, ma già sarebbe interessante poter partire dal testo di Basilio, c'è solo l'edizione di Rudberg, mi pare, per l'omelia Tendet ibi ipsi, solo per quella, quella effettivamente è una strada da percorrere se si potesse vedere che cammino ha fatto appunto il testo basiliano. Per quello che si sa, i manoscritti greci su cui lavoravano questi traduttori erano già a Napoli. A Napoli esisteva un certo numero di monasteri greci dove sicuramente c'erano dei fondi. Io ho fatto delle ricerche, siccome mi sono occupato di alcune di queste traduzioni, ho fatto delle ricerche per vedere se per caso si riusciva a trovare uno di questi originali, ma non l'ho mai trovato, d'altra parte siamo in un'età piuttosto remota. Cito soltanto un episodio che mi è capitato di incontrare in una prefazione di una di queste traduzioni, perché è abbastanza divertente, è una traduzione dei Miracoli di Cosma e Damiano, probabilmente metà X secolo, in cui il traduttore dice mi hanno chiesto, ho saputo che c'erano delle storie su Cosma e Damiano, sono andato nel monastero greco e ho chiesto di saperne di più e questi mi hanno buttato fuori. Allora sono andato di nuovo, ho chiesto, ho insistito, alla fine mi hanno fatto vedere un manoscritto e adesso io traduco. Quindi era materiale che si trovava nei monasteri greci napoletani. Sul bilinguismo, cioè sul fatto che effettivamente ci fossero dei contatti, è stato scritto molto e tuttora non... però sicuramente erano manoscritti che si trovavano lì. Sì, nel caso di Planude forse la risposta è più facile, cioè Planude giovane giovanissimo, insomma, sono a 60, arriva a Costantinopoli e vive certamente nell'ambito cattolico, diciamo così, latino, perché apprende il greco e apprende anche questi dibattiti. Quindi è da credere che, siccome erano domenicani, c'erano anche dei francescani ovviamente, ma quelli che avevano questo interesse alla polemica non sono tutti domenicani, certamente avranno avuto un esempio. Per San Tommaso sicurissimo avevano le due, perché insomma era il sacro testo dell'ordine, per l'Agostino avranno avuto certamente, quindi è lì, io penso. D'altra parte, che a Costantinopoli ci fossero, diciamo, ci fosse una specie di riserva, di reservoir, insomma, di testi ecclesiastici di una certa rarità, è provato da quella lettera anche interessantissima di questi georgiani, perché domenicani di Georgia stanno un po' isolati, naturalmente scrivono ai loro confratelli costantinopolitani, ci cercate nella vostra biblioteca se trovate questo libro, questo pentecostale, che in effetti conserva questo topario solo lì, insomma, ecco, solo lui, questo codice, è scomparso dalla Vulgata, dalla Chiesa greca, altrimenti sarebbe stato facile, bastava scrivere a quel tesi. No, chiede a loro se casomai, dice, avete questo esemplare, dove si conserva questo topario, che i georgiani ripetono. Quindi era una variante, diciamo, liturgica, che è scomparsa nell'ordinario costantinopolitano, rimaneva in provincia ma aveva origine greca, e quindi il fatto che si rivolge ai suoi confratelli vuol dire che avevano interessi, diciamo così, bibliografici, insomma, ecco, per dirla, penso questo. Qualche altro vuole intervenire? Ecco, padre che conosce tutto sugli Arminti, ci mancherebbe. E sono due le cose che volevo dire. Quest'ultima, a cui richiamava il professore, è interessante per il fatto che, come sappiamo, in Georgia a quell'epoca è ormai completamente sostituito l'antico rituale georgiano con quello bizantino. Evidentemente, ma questo già da secoli. È curioso però il fatto che permangano alcune strutture che adesso sono totalmente assenti nell'uso attuale, fino ad epoca così tarda, se ne chiedono traccia in maniera così precisa. Questo è molto interessante. Ed è una cosa che probabilmente solo da qui si riesce a ripescare. Sì, io non sono esperto, certo, mi è sembrato molto singolare questa testimonianza. Sì, questa è molto interessante. Allora, proprio perché la provincia... Il rito gerosolimitano che era usato in Georgia fu poi scalzato completamente da quello bizantino importato da Costantinopoli. Ed è significativo, sarebbe interessante vedere se questo particolare risale attraverso la peregrinazio Egeria, si potrebbe riuscire a risalire, e i lezionari all'eventuale uso gerosolimitano a cui si rifanno i domenicani in questa loro affermazione. La seconda cosa che volevo dire è il fatto della costituzione a fianco dell'ordine domenicano in Armenia di una vera e propria organizzazione religiosa monastica, religiosa diciamo di frati, i cosiddetti Fratres Unitores, la cui opera di traduzione in lingua armena del patrimonio latino è estremamente interessante, estremamente complessa, e comprende non soltanto i testi liturgici, ma anche molti testi, ad esempio San Tommaso e moltissime altre cose, che curiosamente, questo volevo aggiungere, nella recente, diciamo negli studi recenti fatti dagli armeni, sono addirittura rivalutati. Questo perché dico addirittura rivalutati? Perché per molto tempo furono considerati, nell'ideologia interpretativa anche ecclesiastica, una forma di forzata occidentalizzazione dell'Armenia. Leggevo proprio recentemente un intervento anche divulgativo dell'attuale Presidente della Repubblica Armena, che è un filologo, il quale invece sostiene la fascia delle traduzioni degli Unitores legati ai Domenicani come la terza grande fascia delle opere di traduzione della letteratura armena, quindi dando un valore e un significato di grande rilievo. Solo questo, grazie. Ringrazio. Interviene qualche altro? La Maria Rosa Cortese. Nessun altro? Quindi possiamo tutti. E allora chiudiamo.